Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Quel giorno e i giorni seguenti Clelia aveva un'aria molto triste. Lo chiamò parecchie volte, ma aveva appena la forza di dirgli qualche parola. Poi, 5 giorni dopo il loro primo incontro, gli disse che quella notte sarebbe tornata alla cappella. «Posso dirvi soltanto poche parole», gli disse appena entrata. Tremava così forte che doveva farsi sostenere dalla cameriera. Poi la cameriera si tirò indietro verso la porta. Clelia continuò con un filo di voce. «Dovete darmi la vostra parola d'onore, che farete come dice la duchessa, che cercherete di scappare quando e come lei vi dirà, se no vado in convento domani mattina e vi giuro che non vi rivolgerò mai più la parola». Fabrizio non disse niente. «Dovete promettermelo», disse Clelia. Aveva le lacrime agli occhi, era terribilmente agitata. «Dovete promettermelo, se no questa è l'ultima volta che ci parliamo. Mi rendete la vita tremenda. Se penso che è per colpa mia che siete ancora qui e che ogni giorno può essere l'ultimo». Stava per svenire. Per non cadere dovete tenersi all'enorme seggio che c'era in mezzo alla cappella. «Che cosa devo promettere?» disse Fabrizio. Sembrava stanco, scoraggiato. «Dovete giurare di scappare, qualsiasi cosa possa succedere». «E va bene. Giuro di scappare quando me lo dirà la signora Sanseverina, qualsiasi cosa possa succedere». Clelia si sentiva così debole che riuscì soltanto a dirgli: «Se vi foste ostinato a restare qui, avevo già preparato tutto per fuggire domani mattina. Avevo fatto voto alla Madonna che questa sarebbe stata l'ultima volta che vi avrei visto. Più tardi, appena potrò uscire dalla mia stanza, andrò a guardare il muro sotto quella pietra nuova che c'è nella balaustra». Poi lo ringraziò e andò via. Il giorno dopo, alla finestra, Fabrizio vide che Clelia era pallida, talmente pallida che ne provò una gran pena. Lei gli disse: «Non dobbiamo illuderci, perché stiamo facendo un peccato e io sono sicura che ci capiterà qualche cosa. Ma pregate il Signore che mi perdoni, perché io sto tradendo mio padre, sono una figlia indegna, sto per dargli un tale dolore. Pregate il Signore per me, e se riuscirete a salvarvi la vita, fate voto di consacrarmi ogni istante alla sua gloria. Ho pensato di fare così. Tra 8 giorni uscirò dalla cittadella per andare al matrimonio di una sorella del marchese Crescenzi e dovrò tornare a casa la sera, ma cercherò in tutti i modi di tornare molto tardi e forse Barbone non avrà il coraggio di esaminarmi troppo da vicino. Ci saranno tutte le più grandi dame di corte a quel matrimonio e allora ci sarà sicuramente anche la signora Sanseverina. Bisogna assolutamente che lei mi consegni un pacchetto con dentro le corde, corde il più sottili possibile, ben pressate. Lo so, è una cosa che non dovrei fare, ma sono pronta a correre qualsiasi rischio pur di riuscire a portar dentro quelle corde. Se mio padre lo viene a sapere, non potrò vedervi mai più. Ma non me ne importa di quello che potrà succedermi. Se posso aiutarvi a fuggire, mi basta e sarò felice nei limiti di questa amicizia da sorella che ho per voi». Quella notte stessa, per mezzo delle segnalazioni luminose, Fabrizio informò la duchessa di quella occasione straordinaria che le si offriva per far entrare alla cittadella le corde necessarie. Però, e la cosa sembrò piuttosto strana, la pregava di non parlarne a nessuno, neanche a Mosca. «È diventato matto», pensò Gina. «La prigione lo ha cambiato. Prende tutto sul tragico». Il giorno dopo, Fabrizio ricevette un messaggio chiuso in una palla di piombo tirata con la fionda. La situazione stava diventando gravissima. La persona che si era incaricata di far entrare le corde, gli scrivevano, gli stava letteralmente salvando la vita, e Fabrizio lo disse subito a Clelia. Dentro la palla di piombo c'era anche un disegno che riproduceva con molta precisione il muraglione del lato ovest della Torre Grande, lungo il quale avrebbe dovuto calarsi sui bastioni. Arrivato lì, il resto sarebbe stato facile, perché i bastioni erano alti solo 23 piedi e scarsamente sorvegliati. Thank you. Alla festa per il matrimonio della sorella del marchese Crescenzi, la duchessa poté finalmente incontrarsi con Clelia e parlarle senza dar motivo di sospetto ai curiosoni della buona società. Le signore andarono a prendere una boccata d'aria in giardino e la duchessa consegnò a Clelia il pacchetto con le corde. Erano corde fabbricate con gran cura, di un misto di canapa e seta, sottili, piuttosto flessibili, con una serie di nodi. Potevano sopportare senza rompersi un peso di 8 quintali. Ludovico le aveva provate pezzo per pezzo e le avevano pressate in modo da formare tanti pacchetti della grandezza di un volume in quarto. Clelia promise alla duchessa che avrebbe fatto tutto quanto era umanamente possibile per farle arrivare fino alla Torre Farnese. «L'unica cosa che mi fa un po' paura è che siete così timida», disse la duchessa, e aggiunse in tono molto cortese. «D'altra parte, che interesse potete avere per uno che non conoscete neanche? Il signor del Dongo è infelice e vi prometto che con il mio aiuto potrà salvarsi». In realtà la duchessa non ci contava molto sulla presenza di spirito di una ragazza di 20 anni. Certo, si guardò bene dal dirglielo, ma aveva preso altre precauzioni. Naturalmente alla festa c'era anche il generale Fabio Conti. Gina aveva pensato che dandogli un sonnifero molto forte, in un primo momento tutti avrebbero pensato a un attacco di cuore. E allora, invece di portarlo a casa sulla sua carrozza, con un po' di abilità si sarebbe potuto fare in modo di convincerli a usare una lettiga che, come per caso, si sarebbe trovata nel palazzo. Lì intorno, travestiti da camerieri, c'erano alcuni dei suoi uomini, tutti tipi molto svegli. Nella confusione generale si sarebbero gentilmente offerti di portare la lettiga con dentro il malato fino al suo palazzo, su per tutte quelle scale. E quegli uomini, guidati da Ludovico, si erano nascosti addosso un buon numero di corde. Da quando aveva incominciato a pensare seriamente a un piano di fuga per Fabrizio, Gina aveva proprio finito per perdere la testa. Non poteva resistere a saperlo in pericolo. Quella tortura durava da troppo tempo. Fu così, esagerando in precauzioni, che, come vedremo, lei rischiò di far fallire l'evasione. Andò tutto secondo il suo piano, solo che il sonnifero ebbe un effetto troppo potente. Lo dissero tutti che quello era un colpo apoplettico, perfino i medici. Per fortuna, a Clelia, disperata com'era, non venne neanche in mente che potesse trattarsi di un trucco della duchessa e al momento di far entrare nella cittadella la lettiga con dentro il generale mezzo morto ci fu una tale confusione che nessuno badò a Ludovico e ai suoi uomini. Li perquisirono solo sul ponte dello schiavo, ma sommariamente. Poi, messo a letto il generale, li portarono nella dispensa e gli servirono un ottimo pasto che andò avanti quasi fin verso l'alba. A questo punto, però, gli dissero che, secondo la regola, avrebbero dovuto passare il resto della notte chiusi a chiave nelle sale a pian terreno e che il luogotenente del governatore li avrebbe fatti uscire solo al mattino. In un modo o nell'altro, tutti gli uomini erano riusciti a passare le loro corde a Ludovico, ma per lui fu piuttosto difficile attirare l'attenzione di Clelia. Finalmente la vide passare e le fece vedere che metteva i pacchetti con le corde in un angolo di una delle stanze al primo piano. Clelia fu molto colpita da quella stranezza e subito dopo le venne un terribile sospetto. «Chi siete?» chiese a Ludovico. Ludovico cercò di tergiversare. Lei disse: «Dovrei farvi arrestare. Voi o qualcuno dei vostri uomini avete avvelenato mio padre. Che veleno era? Dovete dirmelo subito, così il medico potrà fare qualcosa. Avanti, parlate, altrimenti voi e i vostri complici non uscirete più di qui». «La signorina fa male a spaventarsi», rispose Ludovico, tutto gentile, compitissimo. «Non si tratta affatto di veleno. È stata commessa l'imprudenza di somministrare al generale una certa dose di laudano e, a quanto pare, il cameriere incaricato di questo crimine deve essersene lasciata scappare nel bicchiere qualche goccia in più. Vi assicuro che ne avremo eterno rimorso. D'altra parte, la signorina non deve parlarne a nessuno di laudano e di veleno, neanche a quell'ottima persona che è Don Cesare, perché sarebbe come se ammazzasse Fabrizio con le sue mani. Renderebbe impossibile ogni piano di fuga, e la signorina sa meglio di me che non è con del semplice laudano che vogliono avvelenare Monsignore, e sa anche che una certa persona ha concesso solo un mese di tempo per questo delitto e che è già passata più di una settimana. Così, se la signorina mi fa arrestare o se soltanto dice una parola a Don Cesare o a chiunque altro, il nostro progetto dovrà essere rimandato per molto tempo e si può proprio dire che la signorina finirà per uccidere Fabrizio con le sue mani. Clelia corse via terrorizzata. Si fidava talmente dell'assoluta onestà di Don Cesare che, usando certe precauzioni, ebbe il coraggio di dirgli che al generale era stato somministrato solo del laudano. Senza dir niente, senza far domande, Don Cesare corse subito dal medico. Ludovico era riuscito a scappare. Su un tavolo c'erano una borsa piena di zecchini e una scatola con dentro tante boccette di veleno. Clelia si sentì rabbrividire. «Chi mi dice?» pensò. Che gli abbiano dato solo un po' di laudano, che la duchessa non abbia voluto vendicarsi per quello che ha fatto Barbone. Poi disse a voce alta, «Dio mio, sono complice di chi ha avvelenato mio padre e l'ho lasciato scappare. Forse se gli avessero fatto un interrogatorio, quell'uomo avrebbe finito per confessare che era veleno, non laudano». Si inginocchiò piangendo, si mise a invocare la Madonna. Quando avevano riportato il generale mezzo morto alla cittadella, Fabrizio era tutto preso dall'idea della fuga e non era riuscito a capire che cosa fosse quel rumore. Sulle prime aveva pensato che stessero venendo a prenderlo per ucciderlo. Poi, non vedendo venire nessuno, gli era venuto in mente che Clelia fosse stata scoperta, che le avessero portato via le corde e che ormai il suo progetto di fuga fosse andato all'aria. Il giorno dopo, all'alba, vide entrare uno sconosciuto che, senza aprir bocca, gli diede un cesto di frutta. Sotto la frutta c'era nascosta una lettera. Tormentata dai rimorsi per tutto quanto è stato fatto, grazie al cielo a mia insaputa, ma pur sempre in conseguenza di una mia idea, ho fatto voto alla Santa Vergine che se grazie alla sua santa intercessione mio padre potrà salvarsi, io d'ora in poi sarò pronto a obbedirgli in tutto e per tutto. Non appena lui me lo chiederà, sposerò il marchese e non vi rivedrò mai più. Penso tuttavia che sia mio dovere portare a termine ciò che è stato iniziato. Domenica prossima, dopo la messa, cui farò in modo che possiate assistere, preparate la vostra anima perché potreste morire in quella difficilissima impresa. Dopo la messa, dicevo, cercate di ritornare nella vostra stanza il più tardi possibile. Ci troverete tutto quanto potrà servirvi per ciò che sapete. Se morirete, ne sarò distrutta, perché penserò di aver contribuito alla vostra morte. Ma la duchessa mi ha detto e ripetuto che il partito della Raversi sta per avere la meglio, che vogliono legarsi il principe facendogli commettere una crudeltà che lo separi per sempre dal conte Mosca. E la duchessa mi ha giurato tra le lacrime che non esiste altra via di scampo. Se non fate niente, vi uccideranno, è sicuro. Non posso più guardarvi, ne ho fatto voto. Ma se domenica, verso sera, mi vedrete vestita di nero alla solita finestra, allora vorrà dire che per quel poco che posso fare, la notte dopo sarà tutto pronto. Dopo le 11, forse verso mezzanotte o l'una, metterò una lanterna alla finestra. Sarà il momento decisivo. La domenica mattina Fabrizio andò in cappella per la messa e il Te Deum. La sera ci furono i fuochi artificiali e nelle sale a pianterreno distribuirono ai soldati una razione di vino 4 volte più abbondante di quella stabilita dal governatore, e qualcuno, non si sa chi, aveva mandato anche parecchie botticelle d'acquavite che furono subito aperte. I soldati si ubriacarono e diventarono generosi. Fabrizio, che da più di 8 giorni aveva già segato 2 sbarre dell'inferriata della finestra, non quella che dava verso la stanza degli uccelli di Clelia, poté incominciare a smontare lo schermo di legno soltanto verso 1 di notte. Proprio sotto di lui c'erano le sentinelle che montavano la guardia alla palazzina del governatore, ma non sentirono niente. Aveva fatto qualche altro nodo solo alla corda più lunga, quella che gli sarebbe servita per calarsi da un'altezza di 180 piedi, la parte più terribile della fuga. Se la mise a tracolla, lo impacciava, era spaventosamente ingombrante con tutti quei nodi. Questa sì che è una complicazione, pensò Fabrizio. Cercò di sistemarsi addosso in qualche modo quel rotolo di corda, poi prese l'altra, quella che avrebbe dovuto servirgli per calarsi sulla terrazza della Torre Grande davanti alla palazzina del governatore. Ma anche se i soldati di guardia erano ubriachi, non poteva scendergli proprio sulla testa. Per questo aveva deciso di uscire dall'altra finestra che dava sul tetto di un edificio adibito un tempo a corpo di guardia. Il generale Fabio Conti, cui l'incidente aveva dato un po' alla testa, appena riacquistata la parola, aveva ordinato di sistemare 200 soldati in quel vecchio edificio abbandonato ormai da un secolo. Dopo averlo avvelenato, aveva detto, avrebbero cercato di assassinarlo nel suo letto e quei 200 soldati sarebbero serviti a fargli la guardia. Clelia ne era rimasta sconvolta. Lei se ne rendeva conto di aver tradito suo padre. Per amore di un prigioniero, aveva persino lasciato che quasi lo avvelenassero. E quel fatto imprevedibile le era quasi sembrato un segno della provvidenza che le imponesse di non fare più niente per aiutare Fabrizio a fuggire. Era passata la mezza quando alla finestra della stanza degli uccelli comparve la lanterna. Era il segnale. Fabrizio era pronto. Si fece il segno della croce, legò al letto un'estremità della corda più corta, quella che avrebbe dovuto servirgli a calarsi sulla terrazza della Torre Grande. Arrivò senza inconvenienti sul tetto del corpo di guardia. Mancava un quarto all'una, ma i soldati lì sotto non dormivano ancora. Camminando cautamente sulle tegole, Fabrizio li sentiva parlare. Certi dicevano che doveva esserci il diavolo sul tetto, che bisognava sparargli un colpo di fucile. Si fa peccato a dire certe cose, disse poi una voce. Altri dicevano che a sparare a vuoto il governatore li avrebbe buttati dentro per aver dato un falso allarme. A sentire questa bella discussione, Fabrizio cercò di andare più in fretta e fece ancora più rumore. Fatto sta che quando passò penzolando attaccata alla sua corda davanti alle finestre del corpo di guardia, un po' scostato per fortuna a causa della sporgenza della grondaia, le finestre erano irte di baionette. Certuni ha raccontato che Fabrizio, matto come era, decise in quel momento di recitare la parte del diavolo e buttò ai soldati una manciata di monete. Quello che è certo, comunque, è che aveva buttato molte monete sul pavimento della sua stanza e che poi, arrivato sulla terrazza e andando dalla Torre Farnese al parapetto, ne buttò per terra altre, in modo da offrire una distrazione ai soldati che eventualmente gli fossero corsi dietro. Era sulla terrazza della Torre Grande adesso. Intorno c'erano le sentinelle che di solito gridavano ogni quarto d'ora una frase intera. «Qui va tutto bene!» Andò verso il parapetto dal lato ovest, si mise a cercare la pietra messa di recente. La cosa che potrebbe sembrare incredibile e che potrebbe far venire dei dubbi, se non ci fosse stata un'intera città a testimoniare dell'esito di questa avventura, è che le sentinelle poste lungo il parapetto non abbiano visto Fabrizio e non l'abbiano fermato. È vero che la nebbia stava salendo e Fabrizio avrebbe poi detto che in quel momento era già arrivata fino a metà della Torre Farnese. Ma non era molto fitta e lui poteva vederle benissimo le sentinelle, alcune delle quali andavano su e giù. Comunque, avrebbe raccontato ancora Fabrizio, si era sentito quasi spingere da una forza soprannaturale e era andato a mettersi vicino al parapetto, proprio in mezzo a due sentinelle piuttosto vicine. Incominciò a srotolare la corda che aveva a tracolla. Era molto calmo. La corda gli si imbrogliò un paio di volte. Ci mise un bel po' di tempo per sbrogliarla e stenderla sul parapetto. Sentiva le voci dei soldati che parlavano tra loro da tutte le parti. Era deciso a pugnalare il primo che gli fosse venuto incontro. «Non ero affatto emozionato», avrebbe detto poi. «Era come se fossi intento a una specie di cerimonia». Legò un capo della corda al buco di uno scolo per la pioggia, salì sul parapetto, recitò una preghiera. Poi, come un eroe dei tempi della cavalleria, pensò per un momento a Clelia. «Come sono cambiato», pensò, «da quando sono entrato qui dentro». Poi incominciò a calarsi lungo il muro altissimo. Ogni tanto sentiva un dolore atroce in mezzo alle spalle, tanto forte da fargli quasi mancare il fiato. Continuava a oscillare, a sbattere contro gli arbusti sul muro. Poi si sentì venire addosso qualcosa di piuttosto grosso. Pensò che fosse qualcuno che stesse calandosi lungo il muro per prenderlo. Cercò di difendersi, ma erano uccelli. Li aveva svegliati e gli si buttavano contro svolazzando. Finalmente toccò terra, ai piedi della Torre Grande. Aveva le mani piene di sangue, ma era andato tutto bene. Incominciò a strisciare lungo il terrapieno. Gli arbusti che spuntavano in mezzo alle pietre lo aiutavano molto, lo sostenevano. Adesso era sopra gli orti dei soldati. Si buttò su una caccia. Vista dall'alto gli era sembrata piccola, non più di 4 o 5 piedi, ma ora si accorse che in realtà era molto alta. C'era un ubriaco che dormiva là sotto. Si svegliò, lo prese per un ladro. Poi Fabrizio si lasciò cadere dall'albero, slogandosi quasi il braccio sinistro. Si mise a correre verso il bastione, ma gli sembrava di avere le gambe di stoffa. Si sentiva debolissimo. Dovette sedersi. Beve quel po' di acquavite che gli era rimasta. Si addormentò. Quando si svegliò, dopo qualche minuto, credeva di essere ancora nella sua stanza e non capiva come mai ci fossero degli alberi. Poi si rese conto della realtà. Andò verso il bastione, salì una grande scala, arrivò in cima. C'era una sentinella vicinissima, addormentata nella gretta. Trovò un cannone in mezzo all'erba, ci legò un capo della terza corda, ma arrivato in fondo si accorse che era un po' troppo corta e dovette lasciarsi andare. Cadde in un fossato pieno di fango, con poca acqua. Cercò di alzarsi in piedi guardandosi intorno e si sentì prendere da due uomini. Per un momento ebbe paura, ma già qualcuno stava sussurrandogli all'orecchio: «Monsignore, monsignore!» Capì che erano uomini della duchessa e subito dopo svenne. Dopo un po' si rese conto che stavano portando la braccia. Camminavano in fretta senza parlare. Poi sentì che si fermavano. Aveva paura, ma non riusciva né a parlare né a aprire gli occhi. Si sentì abbracciare e riconobbe il profumo dei vestiti di Gina. Fu quel profumo a dargli un po' di forza. Aprì gli occhi, riuscì a dire: «Ah, Gina!» E poi svenne ancora. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it